America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, è tornata un po' la preoccupazione sui mercati, l'abbiamo visto in Italia, ma l'abbiamo visto soprattutto in America, si soffre ancora a Wall Street del contagio europeo, il Dow Jones ha perso lo 0,62%, per carità, fisiologico, però è chiaro che il riflesso negativo dell'andamento di borsa è un riflesso che arriva dall'Europa, arriva dall'Italia e dal fatto che ancora ieri non c'era un governo, non c'era una compagine chiara che le discussioni si prolungavano e dunque il mercato ovviamente reagisce. Io devo dire che ho fatto un po' di chiacchiere nei giorni scorsi, ieri, ma soprattutto avantieri in preparazione della giornata di lunedì. Ho parlato con analisti, ho parlato con operatori finanziari, con traders, quelli cioè che poi comprano e vendono, e dal loro punto di vista la situazione di fondo che riguarda quella dinamica che ha messo in movimento l'ultima fase di questa crisi che ci trasciniamo ormai da agosto, questa crisi partita con la Grecia e dunque la fase che riguarda l'Italia, non è automaticamente risolta per il semplice fatto che Berlusconi abbia dato le dimissioni e che al suo posto ci sarà Mario Monti. And I think many in the United States, frankly, were very disturbed. Questo per esempio è Ben Rhodes, uno dei responsabili del Consiglio di Sicurezza Nazionale del Presidente degli Stati Uniti, ha seguito molto da vicino la crisi, era a Cannes, lo abbiamo incontrato più volte, la sua posizione è molto chiara, l'ha ripetuta, i governi possono cambiare ma i paesi restano e soprattutto i problemi dei paesi restano, dunque l'accento è non tanto sulla buona volontà, sulla disponibilità, sul fatto che ci sia una persona apprezzata sul piano internazionale, rispettata, che dà credibilità alle intenzioni del nostro paese, una persona come Mario Monti, certo questo aiuta molto, però poi bisogna vedere se ci sarà la volontà politica da parte della coalizione a larghe intese a sostenere le cose dure e difficili che si dovranno fare. Vi ripropongo una chiacchierata che ho fatto con l'economista Alberto Bisin, economista della New York University. All'interno di un contesto di questo tipo, in cui abbiamo un governo che incidesse su pensioni, salari e facesse partire almeno riforme strutturali, che mette mano oggettivamente alla spesa in modo da rilanciare la crescita, all'interno di un contesto così una patrimoniale non ha nessun problema. Ecco, dunque avete sentito, occorre andare ben al di là di quella che è stata la lettera approvata dall'Unione Europea, la lettera di Berlusconi che prometteva di fare certe riforme, bisogna uscire dal box, out of the box, come si dice in America, e affrontare ben altre tematiche. Aggiungo naturalmente a quelle di cui abbiamo parlato con Bisin, e cioè pensione di anzianità, salari, possibile introduzione di una patrimoniale, salari pubblici, ovviamente una riforma strutturale. Bisogna togliere il tappo all'Italia, all'economia italiana, consentire alla gente di poter muoversi più liberamente, soprattutto su quello che si vuole fare dal punto di vista del business. Avendo fatto delle chiacchierate con persone che da questa parte dell'Atlantico sono venute proprio per sfuggire un po' alle rigidità nostrane, abbiamo costruito delle casistiche molto interessanti. Qui in America tutto è molto più facile, si può costituire una corporation, dunque una società senza capitali, mettendo pochissimi capitali, la si può costituire nel giro di 24 ore, si apre un business, ovviamente deve essere un business serio, qualche cosa di molto concreto. Insomma, ci sono degli elementi innovativi che noi dovremmo considerare e introdurre, che vanno al di là dei risanamenti delle voci di bilancio. Ecco, di questo ne ho parlato e vi ripropongo anche un altro piccolo spaccato con Gianfelice Rocca, vicepresidente di Confindustria, soprattutto presidente di Techint, una delle più grandi multinazionali italiane, una persona dunque che ha una visione sul mondo, che sa bene quali sono le nostre dinamiche competitive e come ci poniamo vis-à-vis la concorrenza e dunque sulle riforme strutturali. Sentiamo Rocca. Dobbiamo rimboccarci le maniche in fronte alla Germania, perché essendo nella moneta unica, nel mercato unico, noi non possiamo che farlo rispetto alla Germania. E siccome noi abbiamo visto che abbiamo perso circa 25 punti percentuali di competitività rispetto alla Germania, noi sappiamo che abbiamo tre aree di lavoro. competitività industriale, competitività dei servizi non tradable cosiddetto, e aumento della popolazione attiva, che vuol dire più donne, più ragazzi nell'età fra i 15 e i 24 anni, dove noi abbiamo la metà dei ragazzi che lavora rispetto alla Germania, in pensione più tardi. Ecco, su questo Rock è stato molto incisivo. La Germania ha fatto una volata in avanti con le riforme che hanno portato un aumento della produttività. Dobbiamo fare anche noi queste misure per la crescita. Ci vorrà tempo, ma dobbiamo farle, altrimenti sentite che cosa, secondo Rocca, potrebbe essere il nostro destino. È per questo che questo governo e questo impegno, che è l'unico che ci può consentire di restare nell'euro permanentemente, diventa per noi di un'urgenza fondamentale. Il tempo è scaduto e questa è veramente l'ultima spiaggia. Ecco, ho fatto anche delle chiacchierate però per cercare di vedere l'aspetto positivo di questo, per esempio con Uri Rubini, che mi ha detto che Monti è l'unico che può risolvere questa crisi. Se c'è una persona in Italia che può risolverla, questo è Mario Monti. Una piccola annotazione: Uri Rubini, lo conoscete, il grande economista che ha anticipato la crisi del 2007-2009, continua ad avere un fortissimo seguito, fa delle analisi molto lucide. Bene, è stato allievo di Mario Monti, ha studiato con lui alla Bocconi e dunque, venendo una dimostrazione di apprezzamento da lui, devo dire è molto importante, perché evidentemente lo ha visto da vicino, sa che credibilità, che serietà ha una persona come Mario Monti. Affidiamoci a lui, sperando che tutte queste cose complesse, che per problemi di sindacati, di industrie, di politici, di battaglie, di meline non riusciamo mai a fare in Italia, beh, affidiamoci alle speranze di Rubini. Se non le fa Monti, chi le farà? Beh, nessun altro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, m'ha colpito, non capita spesso che il Wall Street Journal si occupi di musica, soprattutto di musica leggera. Ebbene, lo ha fatto recentemente parlando del nuovo album dei Sigur Rós che esce oggi nei negozi. Il disco dal titolo Inni è un live registrato durante l'ultimo tour Sigur Rós Festival. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.